ti do il mio personale benvenuto a questa serie di podcast Sprigiona il tennista che è in te, nella quale intervisterò numerosi personaggi di rilievo del nostro sport, alcuni anche di caratura internazionale. Bene, ed è proprio per continuare ad offrirti contenuti di alto valore che possono darti nuovi spunti per migliorare il tuo tennis che ti invito a mettere mi piace alla mia pagina Facebook Tennis Winner Game. In questo modo non solo contribuirai a mantenere vivo l'interesse per questa iniziativa, ma mi consentirai di verificare il tuo gradimento. Grazie! Ciao a tutti e bentornati al podcast Tennis Winner Game, sprigiona il tennista che è in te. Oggi siamo in compagnia di Donato Campagnoli. Ciao Donato, benvenuto. Ciao a tutti. Donato Campagnoli lavora ufficialmente per l'Istituto Superiore di Formazione, ISF, della FIT, come consulente tecnico freelance dal 2014 e ufficiosamente dal 2002. Fa parte della task force scientifica dell'Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi e lavora principalmente come relatore riguardo le materie tecnico-tattiche dei corsi dal livello 1 al livello 4. Come analista dei giocatori durante i camp dei giovani giocatori d'elite presso il Centro di Preparazione Olimpico di Tirrenia ed è responsabile dello sviluppo dei progetti internazionali riguardante la formazione degli insegnanti. Dovete sapere che Donato è tecnico nazionale, quarto livello europeo, dal 2005 e nella sua passata collaborazione con la FIT ha lavorato fianco a fianco con esperti come Paul Dorochenko dal 2002 al 2006, il professor Bruce Elliott dal 2005 al 2008 e il professor Richard Schmidt nel 2009. Con un background universitario come interprete professionista e un master post-universitario in economia e gestione dello sport, è stato coach per giocatori professionisti ATP per svariati anni nell'ambito della sua accademia. Donato lavora anche privatamente come consulente per insegnanti o circoli e offre servizi per il miglioramento delle conoscenze e delle competenze dei maestri e per la programmazione tecnica ed economica delle società e delle associazioni sportive. Inoltre possiede una startup tecnologica chiamata MassTech SRL che si occupa di creare prodotti tecnologici e promuovere l'innovazione nello sport del tennis. Donato, io ti ringrazio sin da subito per il tempo che hai deciso di dedicarci e ti parlo a nome di tutti gli appassionati e giocatori di tennis che ci stanno ascoltando. Sei un grandissimo professionista e coach del nostro mondo e la tua passione e l'amore per questo sport ti hanno fatto arrivare molto lontano e ti hanno fatto raggiungere grandi traguardi e quindi mi viene subito da chiederti, così distinto, da dove è nato tutto? Ovvero, quando ti è scattata quella molla che ti ha fatto dire ok, ho capito, voglio fare il coach nella mia vita? Allora, intanto grazie Tiziano per questa presentazione e grazie a te Tiziano per aver pensato a me per questo mio intervento, questa intervista, questa chiacchierata. Mi auguro che ci terrà insieme per i prossimi 30-40 minuti. E volevo appunto ringraziarti, ma non vorrei che questo suonasse come una sviolinata, cioè una captatio eccessiva nei tuoi confronti. Volevo anche ringraziarti per quello che stai facendo adesso. Perché a me piacciono quelle persone che vogliono tentare cose nuove, avere il coraggio di andare anche controcorrente. E secondo me lo sport del tennis in Italia, come anche a livello mondiale, ha bisogno di iniziative nuove, di coraggio, di grande, talvolta di grande aggressività. Quindi volevo appunto ringraziarti per quello che stai facendo, perché non capita tutti i giorni. Ora, ritornando alla base, cioè cercando di rispondere alla domanda che tu mi hai posto, ho capito di poter fare il coach, di poter fare l'allenatore quando ho dovuto processare un'emozione particolare, che all'epoca mi era sconosciuta, ovvero allenavo dei ragazzi. All'epoca, si parla di molti anni fa, ero un abusivo totale, senza qualifiche, ma come la situazione di molti, molti di noi quando hanno iniziato. Ebbene, accompagnando, sì, non è una situazione che riguardasse o che riguardi in questo momento solo me, ha riguardato praticamente tutti di noi, un po' alla ricerca della propria identità, un po' per sbarcare studi universitari, comunque per farla breve, accompagnando ai tornei questi ragazzi che in parte allenavo, in parte no, la capacità di immedesimazione, di identificazione con il giocatore mentre giocava, diciamo una bella parola, l'empatia che io provavo nei loro confronti mentre approfondivano il loro sport, mentre giocavano la partita. All'epoca la conoscenza e la competenza dei tecnici non era quella di oggi, voglio sperare. Però a quel punto più volte mi è capitato di elaborare, di processare e elaborare un'emozione, ovvero è un'emozione particolare quando il match finisce, soprattutto quando il match finisce, ed è legato a un pianto che non è liberatorio, che non è legato al vincere o al perdere, ma è quell'insieme di emozioni che tu provi durante la partita, sapendo che dietro c'è un lavoro, dietro c'è l'impegno di un atleta, c'è lo sforzo di una serie di persone, in primo luogo il giocatore, poi l'allenatore, quale potevo essere io, il dialogo che uno può condurre come allenatore con i genitori, con l'ambiente, con il team, con l'entourage e tutto il resto. Ebbene, a quel punto, alla fine della partita, viene fuori questo insieme di emozioni in maniera incontrollata. Allora, il fatto di provare un'emozione di questo tipo mi ha fatto capire che forse valeva la pena vivere per quello. Ed è una cosa che di tanto in tanto ritorna fuori anche ora, quell'emozione, quel pianto è una cosa che si consuma in privato, non è una cosa da condividere con altri, ed è un po' il mio modo di far capire a me stesso che tutto questo ha un significato. Beh, hai detto già una cosa, anzi più cose bellissime, quindi che hai proprio ragione te quando dici che ci sarebbe da approfondire per giorni, no? Perché la cosa che più mi ha colpito, e penso come ha colpito tanti nostri ascoltatori adesso, è pensare come un coach viva di emozioni, e quando magari alla mente o agli occhi dei più il coach è solamente bravo perché è bravo ad aggiustare i dritti e i rovesci, ecco, dal punto di vista solo tecnico. Invece hai tirato fuori proprio quella qualità, quel saper vivere di emozioni che penso che, come hai detto giustamente te, alla lunga ripaghi e si riesce a capire appunto dalla forte passione e motivazione che tu hai e i più grandi coach professionisti hanno nel portare avanti il loro lavoro e il loro operato con i giocatori. Quindi è l'emozione quella che sta alla base di tutto prima della tecnica, quello che mi pare di aver capito dalle tue parole. Sì, è chiaro che poi ne riparleremo, avremo occasione durante questa nostra chiacchierata di approfondire la cosa e ci riporteremo più volte a questo. Durante la partita, che è un po', per così dire, per parlare bello, è un po' la sublimazione di una serie di processi, cioè ci si prepara, ci si allena, si studia, si analizza, si sbaglia, per poi mettere in pratica il tutto durante una situazione di partita. L'allenatore ha diversi ruoli da giocare, in teoria dovrebbe fare trasparire poco le proprie emozioni, e proprio perché deve implodere, proprio perché deve sforzarsi di essere il più positivo possibile, cioè rendere servizio al giocatore per garantirgli una prestazione che comunque è lui che deve assicurare. Ebbene, queste poi emozioni che si mettono insieme durante la partita, da qualche parte devono sfogarsi, ed è una sensazione straordinaria, cioè è un'emozione piena, è un'emozione come un fiume che non ricerca negli argini, è qualcosa che viene dal profondo, è qualcosa che viene su, ed è sinonimo di grande soddisfazione. Cioè è bello, a me piace pensare che voglia fare l'allenatore per quei 5 secondi in cui quell'emozione si consuma. Vale la pena viverla. Bello, veramente molto bello e entusiasmante. Io un inciso, ovviamente non volevo chiaramente dire che essere coach significa solamente vivere di emozioni, perché le competenze ci devono essere, ma ovviamente sto forse dando per scontato il fatto che intervistando un grandissimo coach come Donato le competenze ci sono, e di conseguenza appunto per questo sono rimasto, non dico sorpreso, però ho colto con grande entusiasmo queste parole, perché nonostante la grandissima competenza e professionalità nel settore, comunque sia il focus, l'obiettivo numero uno rimane l'emozione di quei 5 secondi appena viene finita la partita, appena si finisce la partita, e lì tutto il lavoro che è stato svolto precedentemente, anche dal punto di vista delle emozioni che sono interne alla persona stessa, saltano fuori e sono del tutto liberatorie. Quindi molto molto interessante. E dovete sapere che Donato partecipa a numerosi simposi internazionali e proprio come relatore, e conosce e parla benissimo l'inglese, ed è stato per più volte il traduttore ufficiale di Nick Bollettieri in due di questi simposi in Italia, Roma, dove anch'io ho partecipato negli anni scorsi. E visto che abbiamo proprio nominato il più famoso coach al mondo, ti volevo chiedere, Donato, qual è la caratteristica di un grandissimo coach come Nick Bollettieri che più ti colpisce, e secondo te com'è riuscito a far raggiungere a così tanti giocatori e giocatrici professionisti la classifica di numero uno al mondo nel ranking ATP o WTA? Questa è una grande domanda, perché potrei rispondere con delle cose scontate, ovvie, comunque mai banali, perché potremmo tessere le lodi di Nick per anni, parlando dei suoi 84 anni, delle sue 8 mogli. Sono tutte informazioni che ognuno di noi, parlando di lui, possiede già. E parlando dei suoi numeri uno del mondo, parlando della sua accademia, io recentemente ho anche acquistato il libro, anzi ce l'ho nella versione inglese e nella versione italiana, la sua autobiografia, senza volersi dilungare in commenti qualitativi, cioè bene o male, brutto o bello, cosa che porta uno di 84 anni a svegliarsi alle 4 e mezza del mattino, alle 5 del mattino per andare in campo e fare 5-6 ore di lezione, a prescindere da quello che è la sua retribuzione, può essere poco, può essere molto, a prescindere dal numero di persone che lui impiega in questa sua prestazione, in questo suo servizio. In questo momento negli Stati Uniti, un paio di mesi fa sono andato al convegno PTR negli Stati Uniti a Hilton Head, quella di quest'anno, il 2016, era la mia 10ª partecipazione, quindi penso di essere un veterano. Complimenti. E un veterano, ma c'è stato un intervento molto interessante di una ragazza che io conosco, che sto seguendo indirettamente, che si chiama Lia Friedman, che parlava del coach, dell'allenatore in realtà, o dell'insegnante di tennis, come una persona importante, una persona importante a livello sociale. E Nick, come tutti noi, dobbiamo essere un role model, cioè, in poche parole, un modello, un modello comportamentale, un modello emozionale, un modello perché a noi interessa la persona che abbiamo di fronte, sia essa un bambino di 5-6 anni, un ragazzino che fa parte della nazionale, o anche un adulto che viene a fare lezioni con noi, o un gruppo di adulti che ha appena cominciato a giocare a tennis e casomai si avvicina al tennis con la palla redde, con la racchetta 23 o 25, quindi agli albori della conoscenza. Il role model è quindi una figura di attribuzione, è quello, il maestro di tennis deve essere facilmente riconoscibile, ma soprattutto per la sua condotta sia dentro che fuori dal campo, cioè una serie di persone, quelle che frequentano il circolo, ma anche ma è che il giocatore deve vedere in questa persona, ripeto, a prescindere dalle sue qualifiche o dalla sua reale professione, insegnante, maestro, allenatore, eccetera, eccetera, deve vedere in lui un faro. E Nick è un faro, e come mi auguro di essere io un faro per altre persone. E quindi io vedo in questo settore tante luci, tanti fari, ogni migliore dovrebbe essere così. Perché solo se siamo così riusciamo a costruire nelle persone altri fari, e quindi queste luci moltiplicandosi, almeno questa è la mia visione della vita, contribuiscono a far star meglio altre persone. Da cui il nostro lavoro sociale. Quindi è la capacità di Nick di essere leader, ma di essere autorevole piuttosto che autoritario, è quello che fa la differenza in questo grandissimo coach. È la capacità, scusa se non si dovrebbe mai fare interrompere l'interlocutore, ma è la capacità di Nick di influenzare la vita degli altri, commettendo degli errori, perché si può parlare di Nick come di una persona che ha una grande personalità e una personalità molto spiccata, commette degli errori, ma che si perdona e che gli vengono perdonati, perché comunque questi errori, queste iniziative, queste decisioni che lui prende vanno comunque nella giusta direzione, che è quella di creare delle persone migliori. E noi guardiamo a tutti quelli che lui ha contribuito a far diventare il numero del mondo, ma in realtà quelli sono solo la punta dell'iceberg. In realtà lui ha condizionato la vita di migliaia di persone, ed è questo il suo lascito, questo è il motivo per cui la sua esistenza, la sua vita ha un significato, un valore, non tanto perché lui ha creato dei numeri del mondo. È troppo semplice, è troppo facile guardare a quello che è solo la superficie. Certo. E Donato, per come ne stai parlando, conosci molto bene Nick Bollettieri, e anche di persona, quindi chi meglio di te può dirci appunto queste cose, trovare appunto la caratteristica che più colpisce di Nick. E quindi sono assolutamente delle parole preziosissime. Io entro, diciamo, scopro anche io stesso ovviamente delle cose nuove che prima non sapevo, e sia su di te che di questo grandissimo coach americano. E appunto, visto che condivido pienamente il fatto che non bisogna guardare solamente il risultato finale, ma tutto quello che ci sta dietro, il back-end, dove si è lavorato e da dove si è partito. Infatti è molto interessante l'autobiografia di Nick. E come si chiama, Donato, il libro? Ci può aiutare per chi lo volesse acquistare? Se proprio devo essere sincero, in questo momento non ricordo il nome, perché continuo a citarlo come l'autobiografia di Nick, ma se tu mi dai 2 secondi, mi alzo in piedi, perché sono seduto su una poltrona, ce l'ho qui davanti, nella sua versione inglese, si chiama Changing the Game. Changing the Game, ma se ricordo bene in italiano è stato tradotto come Cambio Gioco. O cambiare gioco, ce l'ho di là. Di là vuol dire una distanza di 10 metri, però rischio di perdere il segnale, perché come ti ho detto prima c'era una connessione telefonica un po' instabile. Non la tiene, per cui siamo a cavallo. Perfetto. Però questo libro che parla di tennis, ma parla anche e soprattutto della vita di Nick, con instabilità affettive, ripeto, 8 mogli, figli distribuiti a destra, manca, accademie che si aprono, che si chiudono, disastri finanziari, decisioni sbagliate, ma poi alla fine quello che resta di questo personaggio, che in questo momento è un personaggio mediatico, qualcuno lo considera ripetitivo, ma in realtà quando lui parla non è mai ripetitivo, anzi è sempre una fonte di ispirazione importantissima. La caratteristica comune della sua vita è che lui ha trascinato, ha ispirato un sacco di persone, è leader in qualsiasi cosa lui faccia. lui è capace di condizionare la vita degli altri, ma non di manipolarla. Certo. È capace di contribuire al successo degli altri, e quindi questo probabilmente è il migliore indicatore della riuscita e del successo di un essere umano. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Infatti mi è venuto il collegamento col libro per appunto, se i nostri appassionati giocatori di tennis che ci stanno ascoltando vogliano documentarsi da dove è partito Nick con questi pochi campi, non so se era uno, erano due campi di periferia, e ovviamente per sottolineare le parole di Donato dette precedentemente, che non è tanto la punta dell'iceberg ma è quello che sta sotto che fa la differenza. Quindi è interessante sapere queste persone di successo da dove sono partite, e ovviamente non è tutto facile, ecco, anche per loro ci sono state tante sfide da affrontare prima di arrivare ad essere Nick Bollettieri, ad aver ottenuto, diciamo, ad aver fatto ottenere la classifica di numero uno al mondo tanti giocatori e tante giocatrici, e bisogna, dietro c'è tanto sacrificio, c'è tanto lavoro. E a proposito di questo, visto che abbiamo nominato giocatori numero uno al ranking, entrando direttamente nello specifico del power tennis moderno, Donato, qual è il giocatore ATP che attualmente tra tutti quelli in circolazione più ti impressiona, e perché, per quali caratteristiche? Ora vorrei rispondere a questa domanda citandone uno solo, ma in realtà sono obbligato a fare un po' la lista delle spese, perché sono tante le personalità che mi impressionano. Infatti io ho parlato di personalità più che di gioco, perché poi nel gioco questi giocatori che alla fine elencherò dimostrano la loro grandissima personalità. In primo luogo io vorrei citare i Bryans. Caspita. Fenomeni nel modo in cui interpretano il doppio, gli unici a saperlo giocare. Fenomeni perché a 38 anni sono ancora competitivi, anche se nell'ultimo anno hanno avuto qualche battuta d'arresto, perché gestire una vita in cui hai più figli, e anche loro sono esseri umani. E come tutti gli esseri umani, fortunatamente siamo imperfetti, la vita con i figli fa cambiare la vita dello sportivo, quindi la prestazione e il risultato di conseguenza scadono. Sono comunque personaggi di un simo spessore perché sono ancora al top 10, ma il modo in cui loro interpretano il doppio, senza scendere troppo nei dettagli tecnici, li fa non paragonabili agli altri. Dopodiché, facile scontato, citerei Novak, perché quando un giocatore ha quasi 17.000 punti e il secondo ne ha 8.000, quindi il doppio dei punti rispetto al secondo nella classifica mondiale, vuol dire che la stabilità interiore ed esteriore di questo personaggio è assolutamente, oltre che esemplare, straordinaria. Vuol dire che il suo rendimento orizzontale nell'anno non solare, ma nell'anno della torneistica è straordinario, e quindi ha una conoscenza di se stesso che altre persone nel pianeta non hanno. È capace di gestire momenti up, è capace di gestire momenti down, il concetto di azienda che ha attorno a lui è un concetto che molte aziende che fanno commercio dovrebbero seguire e dovrebbero applicare alla lettera. Non si deve parlare solamente del suo regime alimentare, ma quello che lui produce sul campo da tennis è assolutamente fantastico. Dopodiché dovrei parlare di Roger, ma perché io faccio parte dell'area tecnica della federazione, per cui per noi Roger è un riferimento per come si esprime tecnicamente. Sarebbe quasi facile, troppo facile, nonché irreverente, parlare di chi è Roger e di che cosa è stato negli ultimi 15 anni. Rafa non è da trascurare, perché la sua capacità di elaborare cognitivamente e razionalmente qualsiasi tipo di situazione ne fa campionissimo. E che sono più o meno tutti quelli che volevo citare, quindi non uno ma tanti, probabilmente ne dimentico altri, però campioni dell'età contemporanea di questo momento, io troverei ispirazione da questi. E è stata una risposta del tutto scusa Donato controintuitiva, nel senso che come primo posto ci sono stati i fratelli Bryan e non me l'aspettavo, se ti devo dire l'onesta verità, o meglio mi aspettavo i fratelli Bryan ma non proprio al primo posto. Al primo posto mi aspettavo Nole, e quindi mi fa pensare appunto quanto insomma anche ci sia una tua ampia conoscenza anche molto approfondita riguardo il doppio, che molto spesso tanti giocatori appassionati ignorano, però è assolutamente una disciplina non da sottovalutare, anzi da tenere molto in considerazione, e che migliora anche tantissimo l'aspetto individuale, diciamo singolo, quando ti ritrovi ad affrontare un singolare per quanto ti riguarda servizio risposta, gioco di volo. Non so se mi puoi confermare tutto questo per quanto riguarda servizio risposta o gioco di volo nella prima volée d'approccio, nella volée di chiusura, nello smash, insomma anche sviluppare una certa capacità di sensazione, sensibilità, quindi tutte cose che si ritrovano dopo all'interno di un singolare stesso. Io mi ricordo Rafa Nadal, visto che l'abbiamo nominato, che nella parte centrale della sua carriera, per riuscire a vincere anche qualche torneo in più di singolare su superfici veloci, e penso che non sia un caso che abbia vinto anche due Wimbledon, e lo zio l'ha iscritto a tantissimi tornei di doppio in quel periodo, e per riuscire appunto a migliorare servizio, risposta e gioco di volo, contemporaneamente giocava sia tornei di singolo che tornei di doppio, e insomma la scelta è stata assolutamente azzeccata, a mio modesto parere. Ho letto l'autobiografia di Rafa, che ha uno stile relazionale un po' diverso rispetto a quella di Open, cioè quella di Agassi, poi ho letto quella di Sampras. Insomma, l'autobiografia di Rafa è molto più tecnica rispetto ad altre, ma proprio perché è più tecnica, chi è tecnico può anche apprezzare alcune cose molte di più di quante altre autobiografie riescano a esprimere in modo narrativo. Ci sono situazioni che lui ha dovuto fronteggiare, come cito una, ma ce ne sarebbero tante: la semifinale che lui ha giocato contro Verdasco agli Australian Open nel 2009, dove lui finisce tardissimo, vince 6-2 al quinto, non sta in piedi, eccetera eccetera, da pochissime ore per recuperare si butta, adesso sarà anche la versione romanzata per l'amor di Dio, però si butta nella vasca delle ore improbabili, la vasca piena di ghiaccio, non riesce nemmeno a fare il riscaldamento, però probabilmente riesce a mobilitare una serie di energie nervose che sono quelle che ogni giocatore, a prescindere dal suo livello, dovrebbe mettere in campo quando altre abilità o altre energie sono praticamente ridotte a zero. E mi piace ricordare, quando sono sul campo, mi piace ricordare che noi, io per primo, siamo molto, molto abituati a creare dei filtri cognitivi rispetto a quello che noi vogliamo fare, rispetto alle nostre imprese, ai nostri progetti. Molto spesso ne vediamo dei pensieri che sono disfunzionali e che ci limitano. Mi piace ricordare quell'aneddoto del suo libro, quando lui a 10 anni gioca un torneo under 12, se ricordo bene, passa tutta l'estate a pescare, quindi si allena meno, gioca meno, sembra essere meno focus rispetto al suo tennis, e gioca contro un giocatore dal quale perde 6-3, 6-3, che aveva sempre battuto. Allora, quando era in macchina, tornano a casa lui e suo padre, e lui è il ritratto della disperazione, non riesce a darsi pace. A quel punto suo padre gli chiede: ma perché stai così male? Scusami, hai passato un'estate che è stato bene, ok, hai perso, ma chi se ne frega? E lui risponde: è vero, questi ricordi nessuno me li può cancellare, sono stato benissimo, ma in questo momento sto malissimo, e quindi tutti questi ricordi positivi non potranno mai compensare la sensazione negativa che in questo momento ho. E il commento del libro è stato: da quel momento Rafa è diventato Rafa. Bene, io sono alla ricerca, quando alleno, di quando alleno, di quel momento lì, di quel life changing moment che trasforma il giocatore da un giocatore comune a un giocatore che valuta se stesso. Quindi c'è sempre un momento nel quale c'è un punto di rottura, quello che gli americani chiamano breakthrough, giusto? Un punto di rottura. Ok, quindi un punto di svolta nella carriera del giocatore, e il coach deve essere bravo e abile nel guidarlo in questo punto di rottura e dirigerlo verso poi ben altri lidi e confini, che sono quelli del successo, diciamo. E per qua, visto che stiamo parlando di Rafa, Donato è appena vinto il Master 1000 di Monte Carlo, e come lo vedi per il Roland Garros? Secondo te può ritornare, oppure ad essere il re incontrastato sulla terra rossa, o Nole in questo torneo era evidentemente in fase di carico e diciamo ritornerà a prendersi la leadership, perché come primo obiettivo ovviamente ha il Roland Garros quest'anno, che non ha mai vinto, e Nadal ce la può fare? Voglio essere acido e non faccio lo scommettitore professionista. Se dovessi dare una mia opinione, Rafa non vincerà Parigi. Non so se Novak sia in fase di carico, tendo a pensare che per un giocatore numero uno del mondo come Novak non ci possa essere fase di carico, ma in tutti questi tornei principali, visto che è una programmazione limitata a 18-19 tornei, lui ha il software settato, oltre che l'hardware settato, per performare al massimo in tutti gli eventi a cui partecipa. Rafa non vincerà Parigi, anche se confesso la mia ignoranza riguardo al torneo di Monte Carlo, perché non ho visto nessuna immagine. Se non probabilmente 3 o 4 punti di tutta la settimana. Però ritengo che Rafa sul 3 su 5 ancora, per come l'ho visto giocare fino a un paio di settimane fa, faccia grande fatica. Bene, quindi vedi ancora Nole, dovrebbe essere, diciamo, l'anno di Nole vincitrice a Roland Garros. Chissà sia l'anno buono questo. Io me lo auguro per lui, però devo anche, senza fare dietrologia, devo però ammettere e confessare che, non avendo visto un'immagine di Rafa a Monte Carlo, prima dovrei vederlo giocare, almeno vederlo giocare un set delle immagini registrate delle partite che lui ha giocato a Monte Carlo, e poi formulare un giudizio oltre che una previsione. Diciamo che se devo scrivere un giudizio, ok, lo faccio, ma probabilmente non è un giudizio diciamo veritiero, perché comunque si basa su una mia analisi di Rafa di alcune settimane fa. Bene, e visto che hai nominato nella domanda precedente un po' di giocatori, quindi dai fratelli Brian a Nole a Rafa e a Roger, ovviamente Federer, e c'è stato un giocatore o una giocatrice che hai allenato o che stai allenando, che rispecchia, ovviamente almeno in parte, perché hai nominato parecchi giocatori e professionisti e tutti bravissimi con grandi qualità, ma c'è stato un giocatore o una giocatrice che rispecchia qualche caratteristica dei giocatori che hai appena nominato? Beh, sarò lapidario. In primo luogo non farò nomi, in secondo luogo la risposta è no. Alcuni dei giocatori che ho allenato avevano caratteristiche, ma in misura parziale, quelle caratteristiche che vengono fatte vedere da giocatori di prima grandezza, quelli che poi ho citato prima. Ma rispondo no, e sono lapidario. Riguardo a una capacità che però accomuna tutte quelle persone, tutti quei giocatori, grandissimi giocatori che ho elencato prima. E l'abbiamo anticipato, l'ho anticipato anche prima questo discorso, parlo e mi riferisco alla, alla capacità di gestione e di controllo del proprio corpo e delle proprie emozioni. Parlo soprattutto della conoscenza di se stessi, una conoscenza di se stessi che matura sia a livello fisico, sia a livello cognitivo che emozionale. Però appunto parliamo di giocatori di prima grandezza proprio perché hanno una conoscenza di se stessi che la stragrande maggioranza dei giocatori non hanno. Io vorrei fare un salto indietro, un piccolo salto per aggiungere un giocatore tra quelli che vorrei citare a mo' di esempio, che è un giocatore che purtroppo non ho mai visto giocare, ma per come è stata anche raccontata narrativamente la sua storia mi sta impressionando e che seguo, perché io sono uno di quelli che la prima cosa che fa quando si sveglia al mattino, oltre ad accendere il computer, è usare il computer per andare sui siti e verificare tutti i tornei che si svolgono sul pianeta, se c'è qualche nome nuovo, se ci sono dei risultati interessanti, se qualcosa sta succedendo, se c'è un ricambio al vertice, così come nei future, nei challenger e così via. Questo giocatore è un giocatore coreano nato nel 96 che si chiama Duki Lee ed è un giocatore sordo e che è il numero più o meno 210-215 ATP. Cito ad esempio questo personaggio che purtroppo non conosco, perché se uno sordo riesce ad arrivare al 200 del mondo, mi auguro per lui che riesca ad arrivare oltre, vuol dire che c'è tanto spazio. Vero, verissimo, e io ne ho sentito parlare e non mi sono documentato, devo di essere sincero, come te sui tornei Challenger o Futures o minori, però mi sono, ne sono entrato a contatto tramite dei post su Facebook e ero andato a vedere qualche articolo e ho notato piacevolmente che questo giocatore appunto si sta facendo spazio, sta sgomitando per raggiungere i primi posti dei ranking ATP, e è una cosa assolutamente piacevole e, se vogliamo, sta attirando tanta curiosità anche nei giocatori, negli appassionati di tennis, perché non c'è mai stata, non lo so, correggimi se sbaglio, non c'è mai stato un giocatore sordo a livelli così alti. No, c'è un giocatore sordo, ci sono stati casi di piccoli handicap, poi che è tutto molto relativo. Questo è un handicap importante, per cui molto probabilmente lui deve, per essere competitivo anche a livello challenger, non è ancora competitivo a livello più alto, cioè della massima qualificazione, ma per essere competitivo vuol dire che lui deve mettere in campo delle capacità, delle abilità che gli altri giocatori non hanno. Certo, certo. E assolutamente, quindi visto che hai parlato di consapevolezza del giocatore, che è un percorso che avviene man mano e ovviamente non si ottiene dall'oggi al domani, ma è un percorso di crescita personale per poi arrivare a questo giocatore coreano, e quanto reputi che sia importante a questo punto, ti volevo chiedere, l'area mentale, la componente mentale nel tennis professionistico, e se praticamente la alleni direttamente all'interno del campo da tennis? Sempre, perché mi rendo conto che noi, sto parlando della mia categoria, la categoria degli insegnanti, ripeto, a prescindere dalle qualifiche, siamo sempre orientati a un tipo di insegnamento old style, ovvero diritto e rovescio, preparazione, impatto, accelerazione, finale, tutte queste cose. In realtà queste sono una minima parte di quello che in realtà, di quello che in pratica si verifica sul campo da tennis. Il campo da tennis è molto di più di un campo da tennis. E parlare di diritto di rovescio, servizio, risposta è riduttivo. Quindi c'è una parte sommersa che in teoria si vede, ma che il gioco impedisce di vedere o comunque di individuare in tempo reale, perché la velocità con cui si esprime il gioco è troppo elevata. E quindi l'occhio umano, così come il cervello umano, ha grande difficoltà a capire quello che succede, le interazioni tra i giocatori. A maggior ragione fa fatica a seguire e il cervello e l'occhio quello che succede nel tempo, e quindi l'aspetto mentale è collegato a tutto quello che è tattica e strategia, ovvero quali scelte esegue il giocatore o i giocatori e quali assetti mettono sul campo, cioè qual è il piano di gioco dei singoli giocatori e come i piani di gioco si adattano per cercare di che un giocatore abbia la supremazia sull'altro. Questi aspetti qui sono aspetti in cui credo molto e dove purtroppo c'è ignoranza, nel senso che non si sa da che parte cominciare, e c'è poco controllo delle statistiche, poco controllo di quelle che sono, ripeto, le scelte, le decisioni che vengono operate dai singoli giocatori. Io curo, o almeno mi adopero per curare questo aspetto, perché è un aspetto, ripeto, a cui si dà poca importanza, ma che alla fine, nel lungo periodo, ti fa vincere o ti fa perdere. Bene, quindi stiamo già anticipando la domanda che ti volevo fare, perché mi piacerebbe entrare in campo ora insieme a te, ma ci siamo già entrati con la domanda precedente. E quanto credi, Donato, che sia importante per un coach avere una metodologia di allenamento comprovata ed efficace? Mi hai parlato proprio ora di allenare tattica e strategia di gioco in relazione agli aspetti cognitivi e all'aspetto mentale, quindi di sapere appunto dove giocare la palla, fare la scelta idonea, diciamo, anche in base a come, in che modo ha giocato l'avversario, e decidere di conseguenza e aprirsi il campo per poi giocare nello spazio vuoto, eccetera. Quindi che metodologia di allenamento adoperi, usi all'interno del campo con i tuoi giocatori, e secondo te quanto credi che sia importante avere una metodologia, una guida da seguire per un coach? Io penso che sia fondamentale. Adesso, senza voler fare una guerra alle definizioni oppure mettere i puntini sulle i, più che di metodologie io parlerei di filosofia, perché poi alla fine noi siamo degli esseri umani e in questo momento, senza voler fare della retorica, siamo un po' il prodotto di quello che siamo stati, e quindi parlo di filosofia perché io per primo sono passato attraverso una serie di interminabile di errori, tonnellate di errori che per fortuna ho fatto, e ho cercato di vedere in questi errori delle risposte. Quindi parlo di filosofia perché ho avuto la fortuna di frequentare alcune persone che posso considerare miei mentori, e continuo ad avere la fortuna di frequentare un sacco di persone che bene o male ascolto e cerco da ognuno di loro di imparare qualcosa. Io credo in una visione olistica del giocatore. Vuol dire che il giocatore non è solo diritto e rovescio. Diritto e rovescio è solo la parte superficiale del giocatore. Credo che il giocatore sia un'espressione, un mix di tante cose. Queste tante cose possono essere area mentale, area fisica, area tattica, area tecnica, ma non solo, nel senso che se il giocatore non ha stabilità fuori dal campo non può avere stabilità dentro il campo. E quindi, come ho detto prima, un giocatore, così come il tennis, è molto di più del singolo giocatore o della singola partita di tennis. Che cosa guardo io quando vado in campo? Beh, il verbo guardare è la parola giusta, perché la prima cosa che faccio è osservare e capire. Mm-hmm. Ovvero resto lì, se possibile, tanto, e cerco di trovare nei giocatori delle caratteristiche comuni in ogni singolo giocatore, ovvero cose che tende a ripetere nel tempo, sia tecnicamente che fisicamente, sia tatticamente. Mm-hmm. Possono essere routine o cose ripetute positive, così come cose ripetute negative. Parlo esclusivamente di quello che sa fare. Mm-hmm. Il giocatore, non parlo mai di quello che non sa fare. Mm-hmm. Ovvero, se lui vuole avere più informazioni riguardo a quello che lui non sa fare, è liberissimo di chiederlo. Mm-hmm. Ma quello che io voglio instillare nel giocatore è sempre una mentalità positiva, cioè fargli realizzare quello che sa fare, quindi renderlo consapevole dei suoi punti di forza. Mm-hmm. E al limite si lavora sul rafforzamento dei suoi punti di relativa debolezza, ma solo previa sua autorizzazione. Mm-hmm. Poi, se devo diventare operativo, quando devo mettere le mani, devo plasmare il giocatore, voglio che ci sia sempre la sua non solo consapevolezza ma autorizzazione. Lui deve lasciarmelo fare. Mm-hmm. altrimenti non vado a compiere degli abusi, non vado a violentarlo se lui non vuole. Mm-hmm. Su che cosa intervengo in primo luogo? Intervengo sul suo linguaggio del corpo e intervengo sul suo modo di stare sul campo, che non è solo aspetti nervosi, mentali, così via. Se lui ha le basi per poter essere competitivo, per seguire il gioco, mm-hmm. per essere sincronizzato con le interazioni che l'avversario di volta in volta gli pone, perché senza quello, e si parte chiaramente dal servizio e si continua con la risposta, perché senza quello non ci può essere tennis. Senza quello non ci può essere tennis, per cui per me posizione di partenza sembra una combinazione, ma in realtà quando faccio i miei interventi per la formazione nei diversi corsi parlo proprio di posizione di partenza, parlo proprio di split step, parlo di queste cose che alla fine mi rappresentano. Mm-hmm. Perché sono quelle cose in cui credo. Credo che questo vada a contribuire non solo a un assetto diverso del giocatore, cioè del corpo del giocatore, ma che sia espressione anche del livello di focus e di attenzione del giocatore stesso. Mm-hmm. E senza questo livello di focus, che ha comunque come benzina motivazione, consapevolezza, fiducia, eccetera, eccetera, senza questo focus il giocatore non può giocare bene. E quindi le prime cose su cui vado a intervenire sono appunto posizione di partenza, che deve sempre garantire equilibrio, stabilità, la posizione di partenza che matura sia nel servizio che in risposta, che nei colpi di rimbalzo. Mm-hmm. Che in ogni singola fase successiva che sia un risultato di scelte di carattere tattico o di un assetto tattico strategico. Quello per me è la base. Sulle basi di questa base, scusate il gioco di parole, poi dopo intervengo per fare ulteriori modifiche. Mm-hmm. Ma senza quello non posso fare modifiche. E per quanto riguarda, quindi è molto importante posizione di partenza, è una tua filosofia di allenamento basata sulla tecnica degli spostamenti, se mi pare di aver capito bene, ma per quanto riguarda la posizione di partenza al servizio, in che cosa nello specifico? Perché mi sto mettendo, questa è una domanda che ti volevo fare, perché mi sto mettendo anche dalla parte dei giocatori, degli appassionati. Ok, posizione di partenza in risposta, possono avere un'idea di come posizionarsi, ok, quindi piedi larghi, busto inclinato in avanti, decontrazione muscolare, split step sincronizzato all'impatto dell'avversario. Invece per quanto riguarda la posizione di partenza al servizio, quali sono i punti particolari in particolare che tu dai e sui quali ti focalizzi maggiormente? Qui parliamo di tecnica pura, purissima. Parliamo di tecnica pura e dovremmo contestualizzarla, però visto che ci siamo parliamo, ne parlo volentieri, anche perché, ripeto, a me piace moltissimo parlare di queste cose. L'equazione tiziana è molto semplice. Se non c'è stabilità in partenza, ovvero al punto zero, prima della creazione dell'energia da parte di un corpo, nell'esecuzione di un servizio, se non c'è stabilità, se non c'è equilibrio in partenza, è molto difficile che nel corso di un gesto, trattino, movimento, perché su queste due parole possiamo recuperare, è molto difficile che venga recuperata stabilità o equilibrio se alla base non c'è stabilità e equilibrio. Ovvero, quello che io cerco di fare per tradurre è assicurare al corpo del giocatore la stabilità dei piedi, e questa stabilità dei piedi che possa essere massimamente funzionale a quella che è la produzione di energia che si verificherà nei momenti successivi al punto zero. Se i piedi sono orientati in maniera non corretta, diciamo non funzionale per le caratteristiche e antropometriche, ma anche e soprattutto specifiche del giocatore, in funzione di una tecnica che diventa poi biomeccanica, se non c'è questo, il servizio determinerà una dissipazione di energia che sarà molto difficile recuperare, anche a fronte di una stabilità tecnica. Quindi quello che io cerco di fare, di mettere a posto, diciamo, le armi prima che queste armi vengano utilizzate. Perfetto, è stato molto chiaro, almeno per me è stato molto chiaro, anzi sto prendendo silenziosamente degli appunti, perché dovete sapere che comunque Donato è anche, diciamo, lo seguo direttamente nei corsi che vado a fare, che andiamo a fare di aggiornamento, comunque nei vari simposi, quindi per me è fonte di ispirazione, comunque sia di miglioramento ogni giorno, quindi io sto prendendo degli appunti direttamente, e così che possa anch'io migliorare su questo punto, perché è una cosa molto interessante. E correggimi se sbaglio, Donato, sto cercando di riportare adesso agli appassionati quello che stavamo dicendo, e sulla base dell'ampiezza della base dell'appoggio può essere un punto pratico sul quale loro si possono concentrare, per esempio in base, diciamo, a mettere i piedi un po' più vicini o un po' più larghi, insomma cercare di trovare un equilibrio che è proprio del giocatore, specifico del giocatore, un balance, un equilibrio che poi gli consenta appunto di avere la massima velocità sia in fase di preparazione che in fase di accelerazione che di impatto. Quindi diciamo si lavora proprio dall'inizio, che molti ovviamente maestri danno per scontata la parte iniziale del movimento, quindi da quando ancora il lancio deve avvenire, e lavorare, aggiustare l'equilibrio, il bilanciamento del peso del corpo, la stabilità degli appoggi, e in questa fase qua poi può avere dei risultati, diciamo, può essere di beneficio per lo sviluppo del colpo, dell'intero colpo, del servizio. È un po' questo, Donato? Assolutamente così. In realtà, purtroppo, ma direi per fortuna, non c'è nulla di scontato. E molto spesso noi insegnanti di tennis cadiamo in questo grande errore. Abbiamo per scontato che il giocatore che abbiamo di fronte abbia una conoscenza del tennis paragonabile a quella che abbiamo noi, ma questo non può avvenire, perché l'esperienza che noi abbiamo, che è la nostra esperienza e che è frutto e conseguenza di anni e anni di esperienze maturate sul campo da tennis, positive o negative che siano, non importa, insomma la persona che ci sta di fronte non ce le ha queste esperienze. Quindi ha processato il tennis, tra virgolette, in modo diverso rispetto a noi. Risponderò in questo modo. Inutile parlare di posizione di partenza dicendo fai così, fai colà. In realtà ognuno di noi è diverso. Certo. Io misuro in altezza X, tu misuri in altezza Y, per cui quello che noi dobbiamo fare è proprio assicurare la stabilità ed equilibrio a ogni singolo giocatore, sapendo che ogni giocatore è diverso. E quindi ciò che vale per un giocatore può anche non valere per un altro. Ma alla fine l'obiettivo deve essere chiaro, cioè equilibrio e stabilità, perché senza equilibrio e stabilità il giocatore non è mai in condizione di esprimersi in maniera efficace ed efficiente. Quindi direi di rispondere così: quello che serve è sempre la ricetta più efficace. È chiaro che per arrivare a questa sono stato molto indeterminato, cioè ho detto tutto e contemporaneamente nulla. Per arrivare a definire ciò che serve per un giocatore bisogna che ci sia esperienza, certo, conoscenza, certo, e competenza. Quella conoscenza, competenza ed esperienza che non hai finché non sbagli. E quindi devi aver collezionato una serie di grandissimi di grandi errori per arrivare a definire la tua filosofia, quella che tu chiami la tua metodologia di insegnamento. Chiarissimo. E infatti non so se hai avuto modo di vedere il primo videoblog che ho postato anche sul mio sito internet, e si aggancia molto bene a questo discorso, perché la prima rubrica, la prima puntata della rubrica Tennis Winner Game parlava appunto di differenze al servizio nella tecnica, dell'espressione della tecnica del footback tra Gael Monfils e Roger Federer. L'ho visto. Quindi mi fa molto piacere che tu l'abbia visto, e non so se l'hai reputato, come dire, interessante o corretta come analisi, come osservazione riguardo l'ampiezza della base degli appoggi di entrambi. Entrambi hanno una propria stabilità, ma che è appunto una loro stabilità, cioè Monfils con i piedi più vicini, mentre Roger Federer con una base d'appoggio più ampia, e entrambi hanno delle proprie caratteristiche, delle proprie differenziazioni, diciamo, nella tecnica del footback, però tutte e due assolutamente performanti ai fini dell'esecuzione del servizio stesso, in termini di prestazione, di velocità e di precisione, di esplosività del colpo, del gesto tecnico. Sono assolutamente d'accordo, nel senso che loro hanno trovato delle soluzioni che sono adattive e sono performanti, perché sono efficaci ed efficienti per loro. Ognuno di noi, guardandoli giocare, può vedere in loro un modello, ma è un modello che forzatamente risulta inefficace, perché loro parlano, si esprimono a livello di massima prestazione, ma non è detto che il loro modello sia calciabile al nostro. Sì, certo. E quindi il consiglio che do, sempre sulla base dell'indeterminatezza che definivo prima, è utilizzare quello che serve, e serve ciò che voi definite attraverso una serie di modifiche, e cioè trovate la vostra posizione di massimo agio, talvolta ampliando la base d'appoggio, talvolta riducendola, oppure trovando un compromesso tra i due estremi. Insomma, mettetevi alla prova, perché solo così vi renderete conto, se avete anche un insegnante di riferimento, meglio ancora, vi renderete conto ciò che serve a voi e ciò che vi fa performare meglio. Questa è una chicca che mi consento di dire, che diciamo da prendere proprio, cioè pesa tantissimo oro quanto vale, per la grandissima professionalità dimostrata nel settore da Donato giorno dopo giorno. Quindi io consiglio a tutti gli appassionati che ci stanno seguendo, e tantissimi giocatori di tennis, di metterla subito in pratica, e cercando appunto di focalizzarsi sull'ampiezza della base d'appoggio per quanto riguarda la fase di partenza, prima della fase di preparazione al servizio, e quindi lavorare sulla stabilità, sull'equilibrio, sul bilanciamento del peso del corpo, che sia completamente centrato il baricentro all'interno del poligono d'appoggio, in modo tale che tutto il servizio poi riesca a fluire, diciamo, in maniera molto più dinamica ed esplosiva. Ma cambiando argomento e siamo giunti, Donato, all'ultima domanda. E di che cosa ti stai occupando attualmente e quale incarico ricopri e presso quali struttura o strutture? Allora, come tu hai ricordato durante la mia presentazione, io sono collaboratore per la Federazione Italiana Tennis, nel senso che faccio interventi ai corsi dal livello 1 al livello 4, cioè dal corso di istruttore di primo grado fino a quelli di tecnico nazionale per quanto riguarda l'area tecnica. Ho alcuni, alcune topic di riferimento, alcuni argomenti che, come hai citato tu, possono essere la tecnica degli spostamenti, oppure la tecnica di base, soprattutto per quanto riguarda i corsi di primo e di secondo grado, ma anche le lateralità. E io qui colgo l'occasione per dire una cosa. La Federazione Italiana Tennis è un ente a cui io devo molto, perché mi ha dato la possibilità di migliorare tantissimo, di espandere le mie conoscenze, di contribuire le mie competenze e di conoscere tante persone che sono poi quelle persone che mi vengono soprattutto dal mio secondo cappello, dal mio secondo ruolo che ho in FIT, che è quello di intrattenere dei rapporti con le altre federazioni oppure con altri enti, ITF, Tennis Europe, e tra le federazioni cito la federazione inglese, la federazione francese, la federazione americana, e quello di darmi la possibilità alla FIT di mandarmi a simposi, conferenze, convegni, dove c'è un'attività di ricerca che io faccio in collaborazione con altri che lavorano presso la FIT, dove andiamo a rappresentare nella maggior parte dei casi. E sono un po' una vetrina internazionale, e lo è. Quindi ho all'interno, nel novero della mia posizione di consulente, di freelance in FIT, un duplice ruolo, quello di fare interventi, quindi fare presentazioni nell'ambito dei corsi, e contemporaneamente partecipare a dei convegni. Poi, siccome sono collaboratore, lavoro come consulente per la formazione degli insegnanti, dei maestri di tennis, principalmente. Che cosa faccio? Vado nei circoli, quei circoli chiaramente che hanno espresso la volontà di espandere il proprio bagaglio di conoscenze, oppure addirittura, parlando di singoli casi, quei maestri che vogliano ampliare il proprio bagaglio di conoscenze, saperne di più o anche acquisire delle competenze di campo. Vado nei circoli, parlo con il corpo docente, cerco di ampliare, come dicevo prima, il bagaglio di conoscenze dello stesso corpo docente, degli insegnanti, a 360 gradi. Quindi si parla di tecnica, si parla di tattica, si parla di strategia, si parla di aspetti fisici, di aspetti mentali applicati al tennis, chiaramente. E quindi svolgo funzioni sia di direttore tecnico per questi circoli, parlando direttamente con i maestri, sia svolgo funzioni di, per così dire, pianificatore. Creo programmi annuali, eventi che maturano nel tennis, cioè sul campo, ma anche fuori dal campo, perché l'obiettivo è quello di dare stabilità, equilibrio, ma soprattutto valori forti a quello che è il bilancio della società o dell'associazione sportiva, perché se l'associazione sportiva o se la società sportiva non è in salute, è molto difficile che i programmi tennistici riescano bene. Dopodiché ho nel tempo restante, però il tempo importante che determinerà il mio futuro anche prossimo, ho una società tecnologica, una startup che sta curando un progetto da un paio d'anni a questa parte, un progetto di ricerca di match analysis automatica applicata al tennis. Sì, la mia società ha una visione che è quella di dare la possibilità a tutti quelli che praticano il tennis di avere dati riguardanti la propria prestazione tennistica, cioè di saperne di più. In poche parole, tutti dovrebbero avere la possibilità di sapere come giocano e di imparare dal proprio gioco. Bene. Queste sono le tre cose principali che sto curando in questo momento. Tanti, come vedete, come potete anche notare dalle parole di Donato, impegnato su più campi con progetti concreti, e sia per quanto riguarda il qui ed ora, sia per quanto riguarda il futuro. Quindi le parole che avevamo detto prima su Nick Bollettieri sono state completamente traslate e anche su Donato, che è una guida, è un punto di riferimento e un faro per tutti i coach che intendono fare una carriera, diciamo, e avere successo in questo lavoro, in questo settore. Quindi anche per me sei un punto di riferimento per quanto riguarda la tua professionalità, il tuo impegno, la tua dedizione e la tua voglia di continuare comunque sia a migliorarsi, a cambiare, come hai detto te prima giustamente, anche magari facendo qualche errore nel percorso, che ci sta, come hai ripetuto prima siamo esseri umani, quindi però servono appunto per crescere, per andare avanti. Quindi assolutamente ti parlo da ancora inesperto del settore, se mi devo paragonare alla tua carriera pluriennale da coach, ho solamente tanto da apprendere e ripeto, sto prendendo appunti per potermi migliorare ogni giorno. Quindi ti ringrazio per tutto quello che hai fatto, che stai facendo per il movimento, per la federazione, per noi coach e maestri. E bene, e anche oggi siamo arrivati al termine di questa strepitosa intervista, e ci sono stati degli spunti davvero molto molto interessanti per chi ci sta ascoltando, e non potrebbe essere altrimenti, vista la professionalità ed il valore espresso oggi a parole, ma vi assicuro anche e soprattutto all'interno del campo da tennis da Donato Campagnoli. Io ti ringrazio. Mi dai la possibilità di intervenire, perché anch'io vorrei ringraziarti per questa grandissima possibilità e opportunità che tu mi hai dato. Ringrazio anche chiaramente non solo te, ma anche il tempo di coloro che ascolteranno questa nostra chiacchierata, non solo il tempo, ma ringrazio tutte quelle persone che ogni giorno sul campo da tennis vogliono diventare più brave, migliori e adoperano le proprie energie verso questo obiettivo. Io ti ringrazio nuovamente Donato per il tempo che tu hai deciso di dedicare a noi, e ti faccio un grossissimo in bocca al lupo per i tuoi progetti presenti e futuri. Grazie ancora. Prima di chiudere, se l'intervista con Donato ti è piaciuta, io ti invito a mettere un mi piace alla mia pagina Facebook Tennis Winner Game e a visitare il mio sito internet www.tenniswinnergame.com. Stavamo giusto appunto parlando di sistemi, di metodi o di filosofia di allenamento con Donato, e proprio in questo sito ce n'è uno che fa proprio al caso tuo. E ti auguro tutto il meglio, una strepitosa giornata e soprattutto play tennis with passion.